diretta, frequenze, vibrazioni in diretta. mi guardai allo specchio. Io personalmente mi piacevo, ma allo specchio no. Non avevo quell'aria lì. Vuotai il bicchiere. Radiazione 21 febbraio 2014. Diretta d'azione del venerdì con controinformazione e musica. Ricordiamo subito gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare qualsiasi tipo di mail, comunicati, iscritti a news, giornali online da poter pubblicare sulla pagina download del sito di radiazione, insomma anche critiche e anche consigli, per esempio sui libri da leggere il lunedì quando c'è Marcello e si fa la lettura. Ricordo che stiamo leggendo Tortuga di Valerio Evangelisti, lunedì siamo arrivati già a una buona metà del libro. Invece per il sito dove potete andarvi a leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente è radiazione.org, dove oltre a leggere la controinformazione potete anche scaricarvi un po' di opuscoli, manifesti, cd e quant'altro potete trovare nella pagina download, oppure riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione. Per la radio la state ascoltando, chi lo sa già non c'ha bisogno di indicazioni, altrimenti chi l'ascolta per la prima volta e ci è arrivato così per culo lo può fare attraverso il sito di radiazione, che è radiazione.org, come dicevo prima, attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta, che annuncia la diretta, allora e di cosa si tratterà, oppure sulla sidebar, sarebbe la barra laterale a sinistra dove ci sono tutti i titoli degli articoli che potete andare a trovare sul sito di informazione. Sopra c'è un lettore, cliccate su play e vi si appiccia la radio. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Black Sun Empire e Noisia, Feed the Machine, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la diretta d'azione e la prima notizia di controinformazione della giornata. Thank you. Allora, dopo questo primo brano dei Black Sun Empire e Nausea, si passa, come dicevo, alla prima notizia di controinformazione, non prima di dare una novità. Questa l'anticipo, ho fatto la proposta ma è come se fosse accettata. Praticamente e molto probabilmente Radiazione raddoppierà. In che senso? Non ascoltatemi due volte, già mi ascoltate due volte a settimana e può passare. Raddoppierà sul sito, è stata fatta una proposta, è stata accettata e quindi diamo la notizia giusto per dare la conferma, anche se non è arrivata del tutto, ma noi la diamo. Praticamente a breve o prossimamente Radiazione sarà in due lingue, quella italiana e quella serbo-croata, che sarà portata avanti da un'altra persona che abita in quei luoghi, non diciamo chi, non interessa, cioè questo penso che non può interessare. Poi man mano si potrà decidere anche di trovare altre lingue se ci sono altri compagni disposti a fare il sito di Radiazione in altre lingue. Per ora beccatevi quella italiana, beccatevi me, poi vedremo cosa accadrà in futuro. Quindi dicevo, prima notizia di controinformazione per oggi, che sarebbe pure la prima notizia, che poi nemmeno a farla apposta trovate ora sulla pagina del sito di Radiazione. La notizia è arrivata dal Messico, dove è caduta l'accusa di terrorismo per i compagni Carlos López, Amelie Pelletier e Fayon Poisson, ma che restano in carcere per altri reati. Leggiamo il comunicato, che è scritto dalla Croce Nera Anarchica Messicana, che però noi prendiamo da un altro sito di altri compagni sudamericani. La montatura sul terrorismo cade. Ieri 17 febbraio sono finiti 40 giorni di indagini per la Procura Generale della Repubblica, la PGR, che ha decretato contro i nostri compagni Carlos López, Amelie Pelletier e Fallon Poisson. In questi 40 giorni hanno cercato di creare un'accusa contro di essi per terrorismo e criminalità organizzata, però e nonostante i loro metodi intimidatori e da inquisitori sono stati incapaci di montare il caso. Per questo motivo i compagni sono stati scarcerati per mancanza di prove. Nonostante ciò, la polizia locale del distretto federale li ha arrestati per l'accusa pendente come danni e attacchi alla quiete pubblica. Le compagne sono nel carcere femminile di Santa Marta e sono state visitate dai loro avvocati, mentre Carlos ha chiamato e ha detto che si trova nel reclusorio Oriente. I reati di cui sono accusati non sono gravi, così potrebbero uscire anche su cauzione, ma ricordiamo che nella stessa situazione si trova il compagno Mario Gonzalez, a cui hanno sempre rifiutato la cauzione perché ritenuto un pericolo sociale. Continuiamo a solidarizzare con i nostri fratelli sequestrati dallo Stato. Libertà per Carlos, Amelie e Fallon. Libertà per Mario, Salvador e Fernando. Libertà per tutti i compagni, giù le mura del carcere. E questa era la prima notizia di Radiazione. Radiazione che oggi è molto improntata sul territorio sudamericano, in particolar modo in Cile, dove ho sottoscritto un testo insieme ad altri compagni di quelle zone, un testo che potrebbe anche uscire prossimamente in versione obuscoletto, che racconta un po' la storia del caso Security, dell'imminente processo che sarà il 25 marzo prossimo. È praticamente un testo che io stesso ho sottoscritto insieme ai compagni di Pubblicazione Refrattario, gli amici e parenti dei compagni arrestati nel caso Security, più altre individualità argentine, messicane e sudamericane in particolare. È un invito ad una chiamata ad una settimana di solidarietà internazionale di agitazione. Si chiama giornata di agitazione internazionale di solidarietà, però cioè, questo significa che in quella settimana dal 13 al 25 ognuno può decidere il giorno in cui fare, mostrare solidarietà verso i compagni del Casa Security in qualsiasi modo, dal volantinaggio, dall'iniziativa pubblica, dall'iniziativa quelle che si fanno nei boschi, quelle al buio, insomma scegliete voi. Quindi parleremo all'inizio di notizie di controinformazione e poi dopo si farà quasi tutto il resto della diretta su questo caso, il caso Security, leggendo quello che c'è sul sito di radiazione, così mettendo anche al corrente chi non ha letto e chi si scoccia di leggere perché è lungo, di capirlo un po' per volta, intervallato da qualche brano musicale. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Hardwire con il brano Manufactured Dreams e poi dopo si torna qui con altra controinformazione. We'll be right back. questi erano, come detto, Hardwire con il brano Manufactured Dreams, brano avvenuto dopo la prima notizia di controinformazione. Allora andiamo avanti con la controinformazione, questa volta si va in Grecia, dove c'è stata una condanna a carico del compagno, membro anche delle CCF, Mihailis Nikolopoulos. Leggiamo il testo che prendiamo da altri compagni. Oggi membro detenuto delle CCF, Mihailis Nikolopoulos, è stato processato per aggressione nella corte di Evelipton. È stato condannato a 3 anni di reclusione dopo aver insultato i giudici dicendo loro di infilarsi le circostanze attenuanti nei loro culi. Inoltre è stato processato per aver insultato i giudici, è stato trasferito al distretto di polizia in via Tiras, dove si è rifiutato di farsi fotografare e dare loro le impronte digitali, fatto che gli arrecherà una nuova accusa per disobbedienza. Il suo processo è stato rinviato e una nuova udienza per queste nuove accuse avrà luogo in futuro. Questa era per quanto riguarda la Grecia, la notizia del compagno in Grecia. Invece passiamo in Cile, dove da ora in poi si resterà praticamente con la controinformazione, come detto prima, sul caso, dopo si parlerà del caso Security quasi per tutta la diretta. Andiamo un attimo a Santiago, dove c'è stato un presidio davanti al carcere di alta sicurezza, il CAS, in solidarietà con i compagni detenuti. Settimana di agitazione e di solidarietà rivoluzionaria con i prigionieri della guerra sociale. Venerdì 14 febbraio, appena fece buio, andammo in corteo davanti al CAS per Hans Nehmer ed i fratelli del caso Security. Mettemmo uno striscione di carta, accendemmo un bengala e gridammo per i nostri fratelli per dargli forza. I carcerieri ci guardavano attentamente, entravano ed uscivano continuamente, mentre noi gli fischiavamo un po' di scandalo. Anche se crediamo che è un po' difficile che i nostri fratelli ci riuscissero ad ascoltare, speriamo che ci sia stato un po' di movimento all'interno del carcere che gli abbia fatto capire che fuori c'era qualcuno che stava solidarizzando. Questo è solo uno dei 7 presidi che abbiamo fatto per i nostri compagni prigionieri. La solidarietà non va in vacanza. Presto invieremo tutte le informazioni. Abbasso lo Stato, carcere capitale, libertà per i prigionieri della guerra sociale. E questo era per quanto riguarda Santiago, Cile. Invece con la prossima notizia si resta sempre a parlare di compagni cileni, però si va in Spagna, dove ci sono delle informazioni per quanto riguarda la spedizione di pacchi alla compagna Monica Caballero, che ricordo insieme all'altro compagno Francisco Solar e altri 3 compagni furono arrestati. Ora sono solo Francisco e Monica in carcere per gli attacchi alle chiese in Spagna. Allora leggiamo il testo che ci fanno avere altri compagni. La compagna può ricevere solo un pacco al mese, il quale include tutto, anche libri. C'è gente che le sta inviando pacchi con libri e altre cose tramite posta, e se questi entrano vengono contati come un pacco e quindi non possono entrare le altre cose di cui lei necessita. Se qualcuno vuole spedire delle cose in solidarietà può scrivere alla mail che trovate anche sull'articolo che trovate pubblicato sul sito di Radiazione. È praticamente la mail solidarietà di Lucia, @riseup.net, e i compagni che si stanno interessando a far avere le cose a Monica faranno tutto per fare dei pacchi in cui riuscire a mettere quanto più cose necessarie servono alla compagna. Poi ci fanno sapere che la compagna sta bene ed è forte, ha avuto il suo primo colloquio lo scorso fine settimana e si prega anche, pregano anche di diffondere questa informazione. Abbiamo bisogno di continuare l'agitazione e se toccano ad una toccano a tutti. Questa era per quanto riguarda la notizia su Monica, che insieme a Francisco comunque continuano ad avere trasferimenti a ripetizione, li stanno sbattendo da un lato all'altro della Spagna nelle varie carceri, sempre al regime FIES purtroppo. Quindi per chi ha intenzione di spedire qualcosa, si prega di seguire le indicazioni che ho appena letto oppure che trovate sul sito di Radioazione. Allora, questa era l'ultima notizia prima di iniziare a parlare poi del caso Security e di questa chiamata alla giornata di agitazione internazionale. Però ora, prima ci ascolteremo un brano del Biotech, il brano è No Victim, e poi dopo si torna qui e si parla di caso Security. E questi erano Biotech con il brano No Victim. Allora, come preannunciato prima, oggi si parlerà per la quasi interezza della diretta d'azione del caso Security, di questi compagni che sono in carcere già da un bel po' di anni in seguito ad una rapina che ci fu nel 2007 nel Banco Security in Cile, dove non c'è stata una sparatoria e in cui morì un capo, un maresciallo dei Carabineros nel conflitto a fuoco. Un altro sbirro rimase ferito. Sì, fare l'introduzione è un po' superflua, proprio perché nel testo che ora andremo a leggere pezzo per pezzo, intervallato anche da qualche brano musicale, la storia viene raccontata in tutto e per tutto. Allora, un'altra cosa che volevo aggiungere prima, chi c'ha voglia, chi sente di solidarizzare, di chi sente suo anche questo testo, lo può scaricare da Radiazione, anche parlo di siti, blog, ma anche di giornali cartacei, e aggiungere la propria firma sotto. Una volta aggiunta la propria firma sotto, può mandare anche una mail a Radiazione, così io faccio sapere ai compagni cileni delle nuove firme che man mano si andranno ad aggiungere. Praticamente tutte le firme arriveranno anche in mano ai compagni rinchiusi per il caso Security, per far vedere un po' la solidarietà che è arrivata intorno a questo caso. Allora, prima del giudizio dell'Inquisizione democratica, in continuo atteggiamento di lotta contro il potere. Giornata di agitazione internazionale solidaria dal 14 al 25 marzo 2014, prima della sentenza contro i compagni Freddy, Marcello e Juan per il caso Security. Poi c'è una citazione di Claudia Lopez: perché nessuna catena sarà perpetua e nessun carcere sarà di massima sicurezza. Un assalto, uno sbirro morto e la campagna di sterminio. A volte costa caro difendere i ricchi. Alexander Marius Jacob. Il 18 ottobre 2007 si verifica un assalto ad una banca situata nel cuore di Santiago, il Banco Security. I carabineros chiusero il perimetro della succursale con il fine di dare l'assalto ai rapinatori. Così, durante il controllo ad una moto, avvenne uno scontro armato e Luis Moyano, Carabineros, muore sul posto. Un altro poliziotto rimane ferito. Santiago Centro si agita e la battuta di caccia si trasforma in vendetta. L'intelligence del Dipartimento dei Carabineros fa un rapido bilancio dell'orchestrazione tattica dell'attacco, le caratteristiche dei partecipanti, tipo di arma e di fuga. Dopo un'analisi rapida danno la sentenza. Gli autori sono ex membri di un gruppo sovversivo. Con una potente campagna mediatica la notizia si diffonde rapidamente attraverso dichiarazioni lasciate alla stampa sia dalla vedova che dai figli del capo Moyano. Gli onori ufficiali ricordano la figura del poliziotto e le minacce contro i partecipanti all'assalto vanno diffondendosi senza troppo giri di parole. Nel giro di un mese viene arrestato uno dei presunti partecipanti alla rapina. Tre giorni dopo vengono fuori i nomi e le fotografie dei presunti membri del gruppo. Questa testimonianza, costruita da, per e dai quadri del potere, viene benedetta come una totale verità, diventando la prova inconfutabile per la società. I volti di Freddy Fuentevilla, Juan Alliste, Marcello Villarroel e Carlos Gdielski di Leo vengono esposti e analizzati dalla stampa e parlano di aspetti biometrici e di analisi criminologica di gran livello. La polizia diffonde il numero di un telefono dove chiamare per fornire informazione. invitando la gente a denunciare ogni sospetto movimento o presenza delle persone che sono già state condannate. Le minacce vengono pubblicate dalla stampa ed il messaggio di fondo è chiaro: li vogliono morti. Avvengono irruzioni nelle case dei compagni, dei loro familiari e parenti, ma nessun segno di loro. Il cerchio della polizia viene esteso, ma non riescono ad arrestare nessuno. La minaccia lanciata dal potere è ferma. I compagni non sopravviveranno se vengono trovati. Did. E allora, io non lo so, io qua mi sembra di averci qualche problema. Spero che la radio comunque si stia sentendo fuori. Ora ho chiesto conferma, però sembra, almeno dalla pagina, che non ci siano problemi. Vediamo, vediamo cosa accade. Allora, andiamo avanti con il racconto su quello che è stato... quanto riguarda il Casa Security in Cile. Ordine di cattura contro chi? Siamo consci del peso delle nostre scelte e non intendiamo ammorbidire le nostre decisioni. Cospirazione delle cellule di fuoco. L'elenco dei nomi e delle fotografie mostrate dai portavoci del potere come partecipanti dell'assalto alla banca mira a rafforzare l'immagine del delinquente ex sovversivo. Rimuovere qualsiasi motivazione di lotta, cercare di isolarli politicamente da qualsiasi ambiente di lotta, renderli emarginati e senza alcuna continuità storica. Ma i compagni non solo hanno un passato di lotta, ma anche del presente e certamente del futuro. I quattro imputati, come partecipanti all'assalto alla banca, sono ribelli attivi che continueranno a combattere e a lottare durante la transizione democratica, senza distinzione davanti alle varie vesti, uniformi, abiti costosi, al momento che esercitano l'autorità e amministrano lo Stato carcere capitale. Con le proprie particolarità e soggettività, ogni compagno contribuisce ad apportare a fianco della lotta articolandosi nelle diverse realtà. Come essi stessi si sono definiti, Freddy Fuentevilla, ex MIR, attivo anticapitalista autonomo. Carlos Quideres Quidileo, lautarino, ex militante attivo Weichafe. Juan Aliste, ex lautarino, attivo sovversivo anticapitalista. Marcelo Villarroel, ex lautarino, sovversivo autonomo e libertario. Allora, volevo fare una precisazione un attimo, perché già ho notato un paio di errori, non lo so perché, stanno capitando un po' di puttanate sulla, almeno per quanto riguarda la pubblicazione dei testi sul sito di Radiazione. Praticamente attraverso Chrome, che c'è una traduzione impostata, praticamente mi cambia i nomi, non è John Aliste ma Juan Aliste, come prima c'era un altro termine che non ricordo, poi dopo me lo vado a rileggere e cerchiamo di ricorreggerlo per l'ennesima volta. Non è un problema di Radiazione, è un problema, non lo so, il caso di Chrome sarà, boh, non lo so, di WordPress, sarà problema di qualcuno, ma non mio, perché mi sono fatto un mazzatarallo per fare la traduzione e ci ho messo 2 giorni. Allora, andiamo avanti. Presenti in 1000 casi, i compagni entrano in clandestinità davanti alle minacce di morte lanciate da portavoci del potere ed una caccia scatenata delle forze di sicurezza che hanno orchestrato lo scenario ideale per cercare il loro annientamento fisico e di legittimare lo sterminio dei rivoluzionari. Freddy e Marcello vengono arrestati in Argentina il 15 marzo 2008. Essendo accusati e incarcerati per possesso di arma da fuoco, facendo così conoscenza con le carceri argentine. Sottoposti a regime di punizione e isolamento folle, con lunghi periodi di detenzione in continua resistenza manifestata nella quotidiana lotta e sfiorando la follia, vivendo senza luce naturale o artificiale e senza un cortile dove camminare, generando la figura dell'isolamento dentro l'isolamento per motivi di sicurezza, che è quello che poi proseguirà in Cile, ma attuato in regime di massima sicurezza nascosto all'interno di ciò che è generalmente noto come Cárcel de Alta Seguridad o CAS. Quando i compagni compiono la metà della pena vengono espulsi in Cile. Intanto Juan viene arrestato anche egli in Argentina il 9 luglio 2010 e viene espulso immediatamente e lasciato in pasto alla giustizia cilena. Carlos riesce a rimanere latitante fino al suo arresto in territorio Mapuche il 28 novembre 2013. Ogni compagno è rimasto fermo sulle sue scelte di vita, nella decisione di lottare rafforzata dagli anni e tracciati da innumerevoli dure esperienze di repressione, ma anche di gioia e di amore in rivolta. Respingere i valori del potere e la monotonia servile non è una decisione passeggera momentanea, ma una continuità ininterrotta. destroyed. Allora continuiamo sul testo per quanto riguarda il Casa Security, con un nuovo capitolo di questo lunghissimo testo, che lo ricordo, chi vuole può anche stamparselo, farlo come opuscoletto, mini opuscoletto, per poterlo distribuire e contribuire così alla giornata di agitazione internazionale e solidale. Allora, prossimo capitolo: il labirinto giudiziario di un annichilimento burocratico. Il mio arresto rivela le paure dello spettro della resistenza. Il mio arresto è la volontà di annientare ogni traccia di alternativa radicale alla verbosità emiplegica e la commedia di rottura con il sistema e le sue punizioni. Nonostante tutto, la lotta continua. Jean-Marc Rulland. La collaborazione degli stati cileno-argentino per riuscire nella cattura di Freddy, Marcello e Juan ci riporta al piano antinsurrezione noto come Operación Condor, attuato dalle dittature in Latino America. Così poi, con l'arrivo di Freddy e Marcello nelle carceri cilene, inizia il processo giudiziario, questa volta incorniciato nella corte militare del funesto procuratore Reveco, riconosciuto complice di torturatori e di linciaggi legali durante la dittatura. Il compagno Juan, una volta arrestato e deportato in Cile, viene trasferito nella stessa inchiesta di Freddy e Marcello, tutti sotto il tribunale militare. Nelle carceri Juan, Freddy e Marcello rimangono separati in tre moduli diversi presenti alla Cárcel de Alta Seguridad, con continue restrizioni da parte dell'amministrazione penitenziaria, con incursioni incessanti nelle celle, così come le molestie alle loro famiglie e compagni. Nell'anno 2010, attraverso manifestazioni e scioperi della fame dei prigionieri politici Mapuche, viene modificata la giurisdizione per cui nessun civile potrà più essere giudicato da tribunali militari. Questa modifica dell'architettura del potere ha provocato il cambio del processo per il Casa Security da circo giudiziario a materia civile, con nuove scadenze, magistrati e disposizioni. Per il potere e il dominio, il processo è stato uno scenario non contemplato, perché in senso stretto ha perseguitato ed ha esortato all'annientamento fisico dei compagni fuggitivi fino a quel momento. Dopo essere stati arrestati, le pallottole della polizia sono rimaste intatte nel fodero delle pistole, pronte per essere scaricate contro altri rivoluzionari. In questo caso non furono sparate per vendicare il loro compagno di arma, il capo Moiano, quindi la questione diventò noiosa. Se non li hanno sterminati con la solita brutalità dell'annientamento fisico, è perché dovevano essere accusati da chili di atti investigativi e di assurdità giudiziarie, e sepolti sotto le mura della burocrazia giuridica e asfissiati dalle procedure insensate. In questo scenario si sviluppa tutto il quadro legale e giuridico che continuamente mostra i propri limiti e cambia le sue regole. Juan, Marcelo e Freddy hanno subito la più lunga detenzione preventiva del Cile nell'ambito della nuova riforma del processo penale, con oltre 4 anni di carcere senza ricevere alcuna condanna. Nel frattempo l'accusa è riuscita ad annullare e a realizzare in 2 occasioni la preparazione del processo, e così estendendo i limiti all'infinito. Non stiamo parlando di termini giusti o rispettare le leggi, parliamo ed evidenziamo la brutalità del dominio e la necessità che hanno di annegare nell'oblio i compagni, detenuti nelle trappole ed il labirinto della pantomima giudiziaria. Nel bel mezzo di questo processo, il 28 novembre 2013, il compagno Carlos Gutierrez Quidileo, fino a quel momento clandestino, viene arrestato dalle forze repressive. Dopo essere stato catturato, viene portato alla sezione di massima sicurezza della Cárcel de Alta Seguridad in isolamento. Il suo processo è indipendente e parallelo a quello di Juan, Marcelo e Freddy. Così il compagno Carlos resta sotto indagine ed in detenzione preventiva, anche se non c'è una data del processo. Una volta messi a punto tutti i trucchi per il gran spettacolo teatrale e stabiliti tutti i pezzi per imporre la verità dei potenti, è stata fissata la data in cui si è deciso di sacrificare sull'altare della democrazia i ribelli. Il 25 marzo 3 giudici, 3 miserabili, decideranno sulla vita dei nostri compagni, elevandosi come semidei per quantificare la porzione di vita in cui i prigionieri dovranno essere puniti. La trappola giuridica si estenderà fino a grandi limiti nel caso non vengano condannati dai fatti per cui sono oggi accusati. I compagni che stavano completando la condanna con benefici per partecipazione in azioni di guerriglia urbana durante gli anni 90, si tratta di Marcelo e Juan, saranno oggetti della discrezione capricciosa dell'amministrazione penitenziaria legale, che deciderebbe se dovranno rimanere in carcere scontando la pena precedente o con i benefici che hanno dal 2007. Le armi della democrazia sono trasformate questa volta in documenti e dichiarazioni che cercano di eseguire le richieste dei persecutori. Così l'accusa ha chiesto: per compagno Juan Aliste, un ergastolo più 20 anni di carcere, accusato per 3 rapine in banca, la morte di Moiano e il presunto tentato omicidio di un altro ufficiale di polizia durante lo scontro nei pressi del Banco Security. Per il compagno Freddy Fuentevilla, la richiesta è di ergastolo semplice più 15 anni di carcere per l'omicidio di Moiano e lo scontro armato con altri poliziotti e 2 rapine in banca. Per il compagno Marcelo Villarroel, i persecutori hanno chiesto la condanna a 18 anni di carcere come autore di 2 rapine in banca. Questi erano Insects con il brano Pressure. Quindi si ritorna qui per chi si è collegato ultimamente e non stava capendo di cosa si stava parlando. Si sta parlando del Casa Security, si sta leggendo questo lungo documento in cui si spiega la storia del Casa Security, gli arresti, la rapina in banca nel 2007, il processo e tutto quello che concerne questo caso. Passiamo al prossimo capitolo. Sugli altari dell'Inquisizione democratica. Perché abbiamo l'anarchia nella nostra testa e non sarete mai in grado di processarla. Non importa quanto cemento ci vomiterete addosso per seppellirci. Non importa quante prigioni costruite per metterci dentro, a quanti anni ci condannate e quante leggi antiterrorismo decretate per rendere più vigorosi i vostri spettacoli teatrali. La nostra anarchia fuggirà ogni volta. Yannis Mialidis e Nikos Romanos, per chi non lo sappia, sono i due compagni detenuti per la doppia rapina in Kozani e Benevento in Grecia, che sono in questo periodo anche loro sotto processo. Allora, i processi sono i momenti culmine del monopolio della violenza da parte dello Stato, dove l'Inquisizione democratica cerca di applicare sanzioni esemplari. Ma nel caso di soggetti ribelli si acutizza e si amplifica il ruolo della giustizia stessa, trasformando il processo in un linciaggio politico. Anche se la magistratura insiste sul proclamarsi pulita e asettica, questo è e sarà un processo che deve difendere gli ordini dei ricchi. Questo è un processo politico. Per questo le prove e l'accusa vanno al di là dei meri eventi del 2007, levandosi contro i compagni in quanto soggetti sovversivi. Con questo non stiamo chiedendo l'uguaglianza di fronte ad una legge o un giusto processo, ma piuttosto cerchiamo di svelare e dimostrare come funziona la struttura di dominio quando si accanisce contro chiunque si oppone e si scontra con essa in maniera quotidiana e radicale. Dunque, a partire dal 25 marzo, i pubblici ministeri, giudici e avvocati a servizio del potere si esibiranno nell'estetica e la vanità. La gendarmerie esagererà fino al ridicolo le disposizioni del teatro della sicurezza e la vedova di Moiano armerà quando più la stampa. Tutti difenderanno la loro posizione di servile e dominio e non abbiamo alcun dubbio sull'atteggiamento dei nostri compagni. A testa alta, senza pentimento sulle loro scelte, con la forza tremenda di chi non si arrende. È necessario capire il momento chiave che significa un processo, sia per il potere che si arroga l'opportunità di giudicare e condannare i rivoluzionari, come allo stesso momento la sfida e l'opportunità per noi, loro nemici eterni, di alzare la conflittualità, alzandolo fino al punto di non ritorno. Nostra è la risposta solidale, con fermezza e coscienziosi della guerra. L'obiettivo trascendente dei teatri legali, anche al di là di un singolo evento in cui viene condannata una persona, mira a tagliare e demolire lo spirito di scontro alla norma, alla regola, allo stesso potere, a secondo dei casi. Così, dopo lo scenario politico, l'intento è quello di seppellire gli imputati, semplicemente eliminarli, annullarli, con il peso di una condanna e trasformati in un mero numero dentro il carcere. Che il mondo, al di là delle sbarre, li dimentichi e che i prigionieri assumano obbedienti il nuovo ruolo assegnato dalla società, quello di condannati. I nostri compagni non soccombono rassegnati al dominio ed hanno mantenuto per tutta la vita la decisione di una lotta permanente, trascendendo e trapassando da scenari specifici, danno una continuità di lotta e la rottura con l'ordine stabilito, dimostrando in tal modo che il potere potrà cercarci, rinchiuderci, alzare i muri e sparare sanzioni e vendette. Ma la nostra volontà sarà di non affrontare tutti gli scenari disposti da potere dalla prospettiva di vittime. Le nostre mani attive cercheranno sempre di distruggere le sbarre che intendono bloccarci. Non delegheremo nelle disposizioni e diritti dello Stato la nostra attitudine di guerra. La lotta è un modo di vivere fino alla fine, senza spazio per i tempi morti. Nello scenario legale, compagni hanno cercato di ostacolare la verità dei potenti attraverso una difesa legale, ma non per avallare o interiorizzare il linguaggio imposto, innocenti, vittime o colpevoli. Così la strategia di difesa non si basa esclusivamente nell'evitare o ostacolare la lapidazione ed il sequestro a vita che pende su di loro, sabotando l'ingranaggio della verità giudiziaria, se non che all'unisono progetta la lotta di strada come una vita di battaglia contro la dominazione. Jesus, after all, knew Isaiah 53. He was the one who would have dictated it to Isaiah by the Spirit. Jesus had prophesied to the disciples that he was about to be crucified, that he would be raised from the dead. So why this anguish? Well, now he's facing the reality of what is going to happen on the cross. I don't think it's the physical pain that is the worst part. E questi erano Disconnected, brano Religion. Continuiamo allora con questo scritto in cui c'è anche la firma di redazione sul Casa Security, con l'ultimo capitolo del documento. Oggi più che mai, parola e azione. Intendiamo la solidarietà come la costante crescita delle nostre idee anarchiche, in tutte le sue forme, per lasciare capire al nemico che nulla finisce qui, che tutto continuerà ancora in carcere o per strada. Da dove ci si trova? Nessun minuto di silenzio ed una vita di lotta. Monica Caballero e Francisco Solar. Di fronte al processo imminente dei nostri compagni, facciamo una chiamata fervente a lottare alzando la voce della guerra, chiamando ancora una volta una giornata di agitazione solidale internazionalista dal 14 al 25 marzo 2014, tenendo sempre un ruolo attivo nella guerra sociale. Invitiamo i diversi individui ad esprimere concretamente l'appoggio e la solidarietà con i compagni in attesa di processo. Capendo che il messaggio di solidarietà sarà ricevuto in modo accurato non solo da parte dei compagni, ma anche dai potenti che vorrebbero vederli isolati e sconfitti. La solidarietà offensiva fronteggia il teatro della giustizia e porta il conflitto degli uffici statali alla strada stessa, dove vogliamo i nostri compagni vivi, liberi e ribelli. Non saremo spettatori del linciaggio dei nostri compagni, né accetteremo umilmente le condanne che possono dare come punizioni esemplari. Il nostro invito è quello che nessuno si sottragga a partecipare e di attivarsi per la liberazione totale. La solidarietà, la forza comune, il sostegno, trapassa i muri, si beffa delle frontiere e unisce i mondi con il linguaggio comune della guerra sociale. Se un guerriero non resti solo nelle aule della giustizia borghese, dipende solo da quanto siamo in grado di creare. Tutte le azioni contano e tutte contribuiscono alla lotta contro il potere, quando seminiamo il seme della solidarietà e della libertà. L'invito è quello di agire, generando azioni di solidarietà multiforme, senza capi o leader, dove ognuno apporta il suo contributo nella realtà in cui si trova. Ogni gesto è importante. Così l'azione solidaria genera, estende e approfondisce le reti di complicità, le potenti armi e strumenti per far fronte al potere. Questa chiamata è un invito aperto ad ognuno che voglia manifestare solidarietà con l'azione, la controinformazione, con pratiche autonome di espressione di ribellione. Non lasceremo solo i nostri compagni. Ad ogni esplosione di minacce fatte da potere, la nostra convinzione è la lotta senza tregua, fino alla fine, fino a distruggere l'ultimo baluardo della società carceraria. Contro tutte le forme di potere, contro ogni forma di dominazione, per strada, prigionieri o in fuga, saremo sempre in costante atteggiamento di lotta. Solidarietà e azione dal 14 al 25 marzo 2014, fino a quando non vedremo Freddy, Marcello, Juan e Carlos in strada, camminare liberi insieme a tutti coloro che lottano. E poi finisce con una citazione delle cospirazioni delle cellule di fuoco, questo lungo documento. I confini e le lingue diverse sono ostacoli che andremo ad eliminare per incontrarci uno al fianco dell'altro, per sollevarci insieme contro i mandati o gli ordini di questo sistema e sputare con disprezzo contro ogni fedele alla legge e le scelte di vita che ci propongono. Il documento è firmato da parenti e compagno, pubblicazione refrattario, individualità a fini di Santiago, Valparaíso, Buenos Aires, Neuquén e Barcellona, solidari in guerra contro il potere e radiazione. Fin quando ci sarà miseria, ci sarà ribellione. E questo era per quanto riguarda il testo che nei prossimi giorni girerà anche sul web, lo ricordo. Ci sono queste firme qua per ora, però chi vuole aggiungersi come firma può o tradurlo nella propria lingua e mettere la propria firma, oppure pubblicarlo sul proprio sito, sul proprio giornale e mettere il nome del giornale, del sito, del blog. Se poi lo spedite a me, a radiazione@artistici.org, farò io in modo di farlo avere ai compagni in Cile, a meno che non ci avete già l'indirizzo, qualche mail o qualcosa, lo spedirete voi, altrimenti passate la mail a me, mi dite abbiamo sottoscritto il documento, sta qua, sta pubblicato qua, sta... e io lo rigiro ai compagni cileni, specialmente quelli di pubblicazione refrattario, che me l'hanno fatto avere e chiesto se volevo apporre la firma. Questa era per quanto riguarda la storia. Abbiamo, con questo testo si è fatta un po' di storia su quello che è il caso Security, che se ne parla pure tanto sulla redazione, l'abbiamo aggiornato continuamente a tutte le vicende del caso Security, da quando c'è radiazione praticamente già i compagni già erano dentro, quindi si è continuamente aggiornato la questione dei detenuti, dei compagni detenuti per questo caso. Quindi per chi si fosse perso non le puntate precedenti ma le informazioni precedenti, in questo testo in cui c'è per la chiamata alla giornata internazionale di agitazione, c'è tutta la storia del caso Security. Ora ci ascoltiamo un brano e poi dopo si torna qui, ma si torna con l'ultima notizia di controinformazione, a meno che non ce ne arriva qualcun'altra all'improvviso. Il brano dei Mentallo and the Fixer, Ruthless, e dopo controinformazione. questo era Mentallo and Fixer con il brano Ruthless. Allora, prima di passare all'ultima notizia di controinformazione della giornata, ricordiamo ancora una volta gli indirizzi e gli appuntamenti prossimi per Radiazione. Ricordo che il prossimo appuntamento con Radiazione è per lunedì 24 febbraio. La diretta d'azione è quella classica con la controinformazione, ma soprattutto la lettura. Stiamo leggendo Tortuga, per chi non lo sa, di Valerio Evangelisti. Abbiamo iniziato con Veracruz e si è continuato con Tortuga, cercando di portare a completare questa, la storia dei pirati dell'autore. Quindi l'appuntamento per chi vuole seguire la lettura anche di Tortuga è per lunedì prossimo, solito orario, ore 17. Invece per chi vuole scrivere mail a Radiazione, radiazione@odistici.org, per mandare una mail specialmente sul testo della giornata di agitazione internazionale solidale per i compagni del Caso Security in Cile, per farmi sapere un attimo chi ha posto le firme, chi vuole aderire alla firma del documento, così da girarlo ai compagni cileni, oppure da usare la mail per mandare dei consigli sui prossimi libri da leggere su Radiazione, se vi piacciono, se non vi piacciono quelli che stiamo leggendo, se dovete farci i complimenti, ma quelli penso che non li faccia nessuno, se volete mandarci a fare il culo, e qua ce ne sono tanti in fila e in coda, potete farlo attraverso radiazione@odistici.org. invece per il sito, dove il sito aggiornato da all'interno di un'area viziata di una cameretta, è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, e qui non ascolterete il puzzo dell'area viziata della mia cameretta, dove potete scaricarvi un po' di materiale. Nella pagina di download ci sono CD, opuscoli, libri, manifesti, insomma un po' di cose c'è nella pagina di download, oppure dove potete anche andarvi a riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast che trovate nella categoria Ascolta le dirette d'azione. Per la radio, chi la sente non c'è bisogno, o altrimenti ogni giorno di diretta, il lunedì e il venerdì dalle 17 in poi, ma prima, già da mezzogiorno, trovate il post sul sito che annuncia la diretta e i temi della diretta. Sotto quell'articolo c'è un banner, il banner è l'immaginetta, quella intermittenza, la ragazzina con le cuffie e con la bandana al viso, insomma, cioè, tanto per fare una spiegazione dettagliata per chi come me è negato nelle lingue, ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle ore 17, oppure anche prima, perché dalle 15.45 già Radiazione è on air con una playlist musicale fino alla diretta d'azione che inizia alle 17 lunedì, con controinformazione, letture e musica; venerdì solo con controinformazione e musica. Altrimenti c'è il lettore flash sulla sidebar, la barra laterale. Ora speriamo tutto in italiano e in inglese, visto che Radiazione prossimamente, si spera al più presto possibile, sarà fatto in due lingue, si raddoppia, così le rotture di cazzo per chi non sopporta Radiazione saranno doppie. Praticamente sulla barra laterale sidebar trovate il lettore flash, cliccate sul play, dovete pigiare play e vi si appiccia la radio lunedì e venerdì dalle ore 17. Ora leggiamo l'ultima notizia di controinformazione prima di lasciarvi con l'ultimo brano. Allora, l'ultima notizia di controinformazione è di Atene, dove c'è una rivendicazione di responsabilità per attacchi incendiari contro i nazisti. I fratelli Mitsagos vendono vetri al loro negozio di riparazione di vetro, situato in via Decaneos Nicolaou, nel quartiere di Agios Dimitros ad Atene, nei pressi di piazza Panagouli, ma vendono anche la loro spavalderia come membri della banda fascista di Alba Dorata. Sull'incrocio prossimo a questa via, Zarras vende alcol al suo negozio di liquori. ma vende anche la sua folle fedeltà all'Alba Dorata come membro del gruppo di questi cazzo di nazisti. I giorni in cui agivano indisturbati e in anonimia sono finiti. I fascisti hanno un nome e un indirizzo e noi li scoveremo. Mercoledì sera, 12 febbraio 2014, abbiamo incendiato la Mercedes privata e il furgone della ditta dei fratelli Mitsagos. E poi abbiamo bruciato il furgone di Zarras. Fascisti, non potete più nascondervi, né nei vostri buchi né ovunque. E questa era per l'ultima notizia di controinformazione della giornata. Ora vi lascio con l'ultimo brano, non prima dicendo: chi si offende è un fedente alle Vampires, Show Me The Way. At the hands of the devil. American exorcist. Some, and they are close to the pontiff, go so far as to suggest that he was a Satanist. At the end, perhaps Father made a dead spirit, perhaps he took a vow that no one could follow. But how he inspired the spirit. Yes. Remember, right, hard to follow too. Today, wherever I look, I see only evil. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Radio azione,